faccio bene. Giuro che lo faccio bene perché faccio questo solamente. Mentre tuo manager tanto merda non la vende, che studia le tattiche per parlare con la gente, ma a quanto pare non è successo ancora niente. A me invece sbattono il tappetino, perché ogni barra fra un arco di travertino. Mamma mi diceva Davide non t'allontanare dal passeggino, mo spacco le casse in giro col passport nel cassettino. Barre vere per Dio, il barbiere di Rio, scegli il flow di chi ti pare, non fottere col mio. Se metto il tuo disco frate sei tu lieve non zio. Non fottere col mio. Perché ne metto tre dentro una cartina e non ce n'è una cattiva. Scrivo il dramma perché rende un po' meno scura la vita. Vivo e non cancello mai, mano non c'ho una matita. Per la merda e per i guai, fate c'ho la calamita. E tu scrivi niente che mi possa dare, niente che si possa odiare, niente, niente, niente. Faccio bene a ricordare, musica ventricolare, suona perpendicolare. Lo faccio bene, giuro che lo faccio bene. Lo faccio bene. Lo faccio bene, giuro che lo faccio bene. Qua, dopo questa couche sembro Highlander. Questi rapper fanno puff come Slimer. Quando passo tutti quanti fanno my man. Uno che mi lasci steso in basso in giro my man. My man. La tua troia quando mi vede ingorda, finisco dentro come Bobby Shmurda. Dopo questa giolla ti si scorda la tua voce tipo sorda, la mia gente tipo un'orda. Forse da bimbo ti scopavi il don, se no non mi spiego perché rappi come un maricon. Oggi ho pietà di te, ma poi domani no. Giro le tue racchie tipo la leva di un carillon. Lo faccio bene, brucio alla gente che odio come se caccio streghe. Io ti sembravo morto, sei il fumatore rinato. Ora l'incastro come un investigatore privato. Lo faccio bene, giuro che lo faccio bene. Fuori casa, con i pacchi dentro casa. Tutti fuori, tutti fuori strada. Farsi fuori fatti, fuori strada. Sì zio, come fanno? Questi dici cazzo, come stanno? Tu dici la vendi, però è taglia. Mi faccio la tipa, però di un altro. I miei lo fanno bene. Popolari, sembra casa al mare. Sto monolocale, fai le affari come piazza fai. I miei lo fanno bene. Fuori con il freddo, fuori con il peggio. Fuori con il pezzo fuori, tu sei fuori tempo. I miei lo fanno bene. Non mi conosci, cercami su Wikipedia. Sti rapper mettono la crema contro l'eritema. Con le sdraio per la strada, fra prendiamo il sole. Da noi gonfiamo la piscina sotto il palazzone. Mi sveglio in tasca, c'ho una pila di consumazioni. E sotto casa c'ho la fila di consumatori. Perché questa roba qua ci paga bene. Quanto è vero che i miei raga fra noi fanno bene. I miei lo fanno bene. I miei lo fanno bene. I miei lo fanno bene, oh, i miei lo fanno bene.